Radio 24. Libera la voglia di fare. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Acceleratore a tavoletta, però su una partita per volta, e poi si valuta quello che è venuto fuori dalla partita e si va a quella successiva. Le partite sono tante e sono tutte di un'importanza fondamentale. Chiaro che così siamo ancora più convinti, ancora più certi di poter lottare fino in fondo per l'Europa. Lo dicono i risultati, no? Che noi facciamo dei proclami, ci siamo arrivati per gradi, è chiaro che se poi ti trovi al quarto posto dopo 25 giornate, poi arrivi qui a Napoli, vinci anche questo tipo di partite in questo modo, siamo autorizzati a provarci. Alla fine dell'anno si dice sempre che più o meno gli errori sono bilanciati, io non lo so, io credo che noi dobbiamo rimanere concentrati sulle nostre prestazioni. Poi è chiaro che se mi fai il raffronto 12 rigore contro 2, la differenza è notevole e quindi può pesare. Bacca trasforma scivolando il Milan in vantaggio. Immobile, il controllo con il petto, non riesce a calciare. Immobile, calcio di rigore per la Lazio. Parte Immobile, non sbaglia, non perdona. Che bella domenica che ci aspetta, eh? Abbiamo riassunto tutto ciò che accade alle spalle della Juventus. Accade tanto dal punto di vista sportivo, perché c'è una meravigliosa corsa nella corsa per l'Europa in questo momento dietro Juve e anche Roma. Vediamo questa sera il verdetto di San Siro. Ci sono 5 squadre in 7 punti. Si va dal terzo posto del Napoli, che significa preliminare per la Champions League, al 7° posto attualmente del Milan, che significa fallimento su tutta la linea. E dietro corrono, Ma poi l'avete sentito, la domenica dei rigori, Calvarese imbarazzante in Sassuolo-Milan, Pairetto chi lo sa, perché io non ho capito, magari aveva ragione lui. Al centesimo replay non si è capito bene. Sì, calcio diciamo, che non vedremo più, perché l'anno prossimo con la Moviola in campo questi episodi saranno chiari. Sarà chiaro innanzitutto il rigore di Paletta, ma lo era causato da Paletta in Sassuolo-Milan, ma è chiaro anche senza la Moviola, bastano gli occhi. Il doppio tocco di Bacca, ma adesso vi raccontiamo tutti di Bacca, tutte queste cose. Il Napoli ha calato il jolly e di questo parleremo, ecco. Perché ha riaperto i discorsi, o meglio il jolly gliel'ha fatto calare un'Atalanta meravigliosa che dobbiamo considerare al pari delle altre. Allora, io saluto subito grandi. Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport. Ciao direttore, buon pomeriggio. Ciao, saluto a voi gli ascoltatori, ciao a tutti. Allora, io ve la butto lì, poi li sentiremo. Peluso, uscendo dal campo, Sassuolo-Milan, e poi hanno il coraggio di dire che sono in credito, e si riferisce ovviamente alle parole di ieri di Montella, di Francesco. Adesso devono avere il coraggio di stare zitti. Ci aspetta una bellissima domenica sera, no direttore? Beh, comunque insomma, quello che è successo in Sassuolo-Milan veramente è clamoroso, avete detto del doppio tocco di Bacca, ma il rigore, come giustamente dicevate, di Paletta, proprio che solleva l'avversario sotto gli occhi di tutti, è una cosa che è inspiegabile. Insomma, non serve una VAR, no, direttore? Bastano un paio d'occhi. No, ma due, quattro, perché tra l'altro ci sta pure l'arbitro di linea, diciamo così, quello a fondo campo, non vede nessuno, cioè è una cosa veramente imbarazzante. Io vedendola sono rimasto veramente imbarazzato per l'arbitro, per l'assistente. Addizionale Di Paolo che tra l'altro entra anche nel doppio tocco di Bacca su rigore, che magari è meno facile da vedere a velocità normale. Era impallato, però secondo me era impallato l'arbitro, nel senso che l'arbitro è un po' di schiena rispetto a Bacca sul rigore, mentre l'addizionale è completamente impallato su Paletta che spacca in due l'attaccante del Sassuolo. Ripeto, noi abbiamo detto che il Milan nelle ultime domeniche ha avuto qualche torto, oggi possiamo esimerci da dire questa cosa qui, però insomma questo è oggi il clima. Sì, ma non è un problema, cioè, non è che nessuno dice che è sempre a favore di uno o contro l'altro, è che ripeto, la partita di oggi da qualunque parte la guardi, ma io ripeto, credo che anche i giocatori del Milan siano rimasti un po' imbarazzati. Non può succedere quello che abbiamo visto. Sì, sì, assolutamente. Allora, io vi ricordo il numero 800 24 00 24, chiamate, vi prenotate e poi intervenite, siamo in diretta fino alle 19. Vi annuncio già che dopo le 18 facciamo un'ampia pagina sullo stadio della Roma e voglio capire chi ha vinto e chi ha perso. 800 24 00 24, chi ha vinto, direttore, e chi ha perso? No. Approfitto della tua presenza. Hanno pareggiato? Hanno pareggiato, nel senso che e la Roma riesce a fare lo stadio e comunque diciamo anche qualcosa intorno che non è quello che immaginava all'inizio. Però ecco, io mi chiedo anche qui, però, ma è possibile che soltanto dipenda dal fatto se c'è uno schieramento politico o un altro, che una cosa va bene il doppio o altrimenti la metà. O si è sbagliato adesso o si sbagliava prima. Comunque insomma, in questa vicenda è curioso pensare che diciamo lo stesso progetto che prevedeva il doppio delle cupature andava bene a qualcuno forse giustamente non va bene agli altri, però ma la sorpresa mi pare fuori luogo, siamo in Italia, mio caro direttore, sappiamo come vanno le cose. È una risposta realista ma desolante sì, finché vuoi, siamo in Italia, dai, lo sappiamo, è inutile che ci raccontiamo. Sì, però io voglio aggiungere un tema in più e ripeto, dopo le 18 andiamo in maniera approfondita su questo argomento, è che noi saremo anche italiani, siamo in Italia, però abbiamo anche avuto a che fare con gli americani. E allora il tema che io voglio porre è questo: Pallotta ha usato molto, anche legittimamente, negli ultimi giorni la leva del senza lo stadio la Roma smantella, più o meno abbiamo visto le prime pagine. Oggi io credo che i tifosi della Roma gli debbano dire: adesso che hai la prospettiva e il motivo per cui sei venuto, io da subito mi aspetto che la Roma diventi la vera anti-Juve. Guarda, hai letto nel mio pensiero, perché io la immagino esattamente come te. Innanzitutto, secondo me non era giusto dire prima senza lo stadio la Roma smantella, perché la Roma fortunatamente quest'anno festeggerà i suoi 90 anni di vita, anche senza lo stadio. Negli ultimi 10-15 anni, prima ancora che arrivasse Pallotta, è sempre stata o ha vinto lo scudetto, poi è arrivata seconda, ha fatto dei quarti di Champions League, insomma, per cui mi è sembrato veramente un allarme molto molto egoistico. Però a questo punto, visto che questo allarme l'ha lanciato, adesso c'è l'altra faccia della medaglia e concordo con te. Adesso che c'è lo stadio, però, non solo bisogna fare una Roma importante per l'Italia, ma una Roma importante per l'Europa. Ce l'avevano detto quando erano arrivati 6 anni fa, 7 anni fa, non è mai successo. Adesso veramente non c'è più il minimo alibi, per cui da giugno, luglio mi aspetto investimenti massicci all'altezza del nome della Roma e soprattutto appunto dei progetti e degli investimenti che riesce a dare ai suoi azionisti, insomma. Intanto vivisezionato io dai RIS della Moviola, il rigore di Immobile. Direttore, non so che idea ti sei fatto tu, io sai che continuo a non capire. Io non ho capito dove era il rigore. Ecco, allora siamo in due, anzi in tre. Quattro, in cinque milioni, in 50 milioni, non è chiaro. Non sai se è peggio, nel senso che non aver visto una cosa clamorosa che è successa come a Sassuolo, o aver visto una cosa che io, onestamente, anche io, ripetendolo 10 volte, a meno che poi non sbuca fuori come a volte accade un'inquadratura diversa, eccetera, eccetera, ma da quello che abbiamo visto fino adesso non ho capito. Va bene, grazie direttore. Non sarebbe capito neanche con la VAR. Credo neanche con la VAR, ma per mesi. Grazie Alessandro Vocalelli, che ringrazio particolarmente per questo intervento, direttore del Corriere dello Sport. Allora, andiamo in traffico, dai, che poi c'è Montella. Tutti convocati. Convocati. Allora, chiede Lorenzo, che ha scritto al 349-238-6666 via sms o whatsapp: fate voi, vorrei capire cosa facevano gli assistenti di Calvarese, che cosa guardavano. Questa è una domanda interessante, mentre su Premium sta andando la moviola di Sassuolo-Milan ed è un cimitero di errori per Calvarese e per tutti i suoi assistenti. Vi racconto anche di Inghilterra-Italia, terza giornata del 6 nazioni, siamo sul 17-10 per l'Inghilterra, 53 minuti di gioco, Italia che aveva chiuso avanti per 10-5 il primo tempo, 0-0 invece in Spagna tra Atletico Madrid e Barcellona. e nel finale di trasmissione verso le 19 andremo dal nostro Filippo Maria Ricci per farci raccontare questa partita che può decidere la Liga, sentiamo Montella allora, che commenta Sassuolo-Milan con i tanti casi da Moviola di cui si discuterà molto, così come era stata discussa la partita d'andata. Montella, microfoni di Premium. No, stavo ascoltando perché è facile parlare alla poltrona. Intanto la palla è andata, la ritoccata è evidente, Bacca su calcio di rigore, non sto dicendo il contrario, il regolamento sarebbe da calcio indiretto per il Sassuolo, ma è anche vero che la palla fila liscia dritta e probabilmente nessuno se ne è accorto degli assistenti. Se ne fosse accorta la VAR probabilmente l'avrebbero fatto ribattere, perché c'erano due giocatori del Sassuolo dentro l'area di rigore. Come ha detto quindi Andrea, tutto, sì, è tutto relativo, ogni squadra naturalmente guarda le proprie i propri diritti, ma se si guarda tutto a mente fredda bisognerebbe mettere tutto nella valutazione. In questo caso sarebbe stato da ribattere e quindi in quel caso non c'erano pochissimo spazio per lamentarsi, cosa che adesso può avvenire perché non c'è la VAR. Ecco, parliamo un attimo del risultato della partita. Lei aveva detto risultato a tutti i costi, oggi sulla si chiude un'era, soprattutto il Milan deve rimanere attaccato il più vicino possibile al treno europeo, vittoria anche da dedicare a Berlusconi, insomma, visto che oggi si chiudeva un'era. Ma non lo so se si chiude un'era o meno, ne parlerò, non posso, siamo agli sgocci, probabilmente sì, ma non lo so. Finché non è nulla di ufficiale, non lo so, sicuramente questa è una vittoria importante, sicuramente anche questa la dedichiamo a Berlusconi, perché dagli ultimi 3 anni il Milan ha sempre perso qui allo Stadium e oggi abbiamo vinto soffrendo, come è normale che sia, potendo chiudere la partita un po' prima, faticando molto contro un grande Sassuolo, come avevamo detto alla vigilia, una squadra che al completo ha fatto grandissimi risultati, cosa che sta rifacendo in termini di gioco, ci ha costretto a stare bassi, ci ha costretto a tenere una tenuta mentale altissima, altrimenti non l'avremmo portata a casa questa partita. E Sassuolo ha fatto, quindi complimenti a loro che hanno fatto un'ottima partita, anche se ho visto un po' troppo nervoso anche in questa partita, ma questo io se posso essere sincero, questa poteva anche risparmiarsela. Montella, intanto saluto Demetrio Albertini, che buongiorno a tutti, ciao. Poteva risparmiarsela Demetrio, dai, dire che ha visto troppo, ha detto che ha visto troppo nervosi quelli del Sassuolo in questa partita con Risolino, insomma, poteva risparmiarsela, no? Penso di sì, in questa situazione penso di sì, nel senso che uno bisogna mettersi sempre nei panni dell'avversario, e quindi se fosse successo il contrario che cosa, come sarebbero comportati. Mi sembra giusta la disamina di Montella. Quello che è Sassuolo è una buona squadra al completo e il Milan ultimamente sta avendo dei risultati anche soffrendo, questa è la cosa più importante. Guarda, io vi do due numeri perché poi ovviamente si parlerà solo della Moviola e questa è una partita da questo punto di vista che fa parlare, però zitto dopo il capo con la Sampdoria, Montella con la sua testa, con un paio di scelte, ad esempio Sosa al posto di Locatelli che in pochi ne stanno parlando, 3 vittorie, 1 pareggio e tra l'altro con un calendario nemmeno semplicissimo, no Demetrio? Tante volte abbiamo discusso delle difficoltà di Montella a gennaio, che sono qualcosa di quasi storico delle squadre di Montella, però il Milan si è ripreso. Io ho visto domenica contro la Fiorentina, ha giocato un buon primo tempo, è stato un bel primo tempo, nel secondo tempo ha sofferto moltissimo, non ha subito tiri in porta, è una squadra che sta dimostrando anche garra, no Demetrio? Ci vuole il lavoro quando nascono, ci sono le difficoltà per portare a casa i risultati. Questo lo dico da ex calciatore, se c'è il lavoro e credi in quello che stai facendo, anche nelle difficoltà qualche volta stai unito e riesci a portare a casa qualche risultato. Gennaio li ho visti abbastanza in difficoltà, i risultati non gli hanno dato quell'aiuto che magari in altri momenti gli hanno dato. Però il lavoro c'è, questa è una squadra che ha saputo lavorare fino adesso, ha raccolto tanti punti, quelli che si merita, perché io dico sempre quelli che si merita, e ne ha persi quelli che si merita, e si è meritata, quindi è nella posizione che c'è. Senti, secondo te si merita la riconferma anche con i cinesi, Montella? Cioè di iniziare ad aprire un ciclo nuovo? Ma dubbi credo non ce ne siano. Guarda, io dico solo una cosa, che quando inizio un percorso, perché forse è stato anche il difetto, la criticità di alcune società e anche del Milan, di non programmare, no? Perché poi programmi un percorso, poi trovi delle difficoltà, allora o cambi l'allenatore o cambi tanti giocatori, e questo è stato forse il difetto più grosso di questi ultimi anni. Oggi sembra che ci sia un progetto, ci sia un percorso, quindi bisogna inserire, come ho già detto, non fare mercato e basta, ma inserire dei giocatori più bravi di quelli che ci sono. Il Milan oggi deve aumentare la qualità. Quindi quello che decideranno i cinesi non lo so, però Montella per ora è riuscito a dare un senso al lavoro iniziato in quest'anno. Sì, ma guarda, secondo me ha fatto un'eccellente semina, ha arato il terreno, ha fatto un'eccellente semina con i giocatori che aveva. Il Milan, lo ricordo tutte le volte, una delle squadre più giovani d'Europa. Mi sembra che manchi, oltre che di talento, anche di leadership, Demetrio. Mi sembra che manchino quei due o tre leader della squadra, quelli che ti prendono in mano la squadra nei momenti di difficoltà. Poi scegli tu i nomi. No, ma non sono solo... Io credo proprio anche... conosco bene l'ambiente, è sempre individuato nei Milan, anche quelli dopo che ho smesso io, sempre qualche giocatore leader nello spogliatoio, punto di riferimento importante per la crescita di alcuni, ma soprattutto anche per l'equilibrio della squadra, che non parlo solo del campo, io parlo nel campo di talento, proprio nello spogliatoio. Manca forse questo, almeno da esterno non vedi un leader che può trascinare determinate cose, che venga preso alla lettera in tutti, mentre prima ci sono, questo concordo. Questo va già a dire, non so, Gattuso, i Bonucci, Buffon. Sì, il vecchio Milan, quello guarda, lo vedi soprattutto, in queste cose, nelle squadre in generale, questo è il mio punto di riferimento, sono quelle squadre che giocano bene e poi alla fine portano a casa sempre pochi risultati e poi vanno nel panico, soprattutto le squadre magari che lottano per la salvezza o magari anche le squadre che lottano per il campionato, e arrivi al dunque che ti mancano sempre 3-4 punti, 10 punti, e quello, lo spogliatoio, sono quelli che i leader che ti aiutano a portare a casa quei 4-5 punti, sono i leader nascosti, anche sì, non sì, per sì, forza sì. I titolari, sì, ma sì, non sì, per certo, forza certo, certo. I bomber che ti fanno i gol e ti fanno vincere le partite, sono quei leader nascosti, e quello credo che ad alcune squadre, più ci penso o più le vedo che manca questo tipo di personaggi. Chi è il leader dell'Atalanta? Ma questa so è una bella domanda. Chi è il leader dell'Atalanta, che sta facendo una cosa straordinaria? L'Atalanta sta facendo una cosa straordinaria. Io dico che ci sono due situazioni reali, perché poi dopo ha dato via anche dei giocatori importanti a gennaio, chi è andato via direttamente e chi è già stato venduto per giugno, no? Credo molto che abbiano trovato un equilibrio grosso, un equilibrio importante tra la società e l'allenatore. Questo è veramente importante, l'allenatore che sa lavorare tanto coi giovani, perché ha fatto la gavetta, arriva da lì, avendo tanti successi anche con la primavera della Juventus, e credo che a questo punto il leader possa essere l'allenatore. Gasperini. Poi qualche ragazzo italiano buono c'è, questo in generale per il calcio italiano più che leader vedo dei grande talento. Mi fa piacere fa veramente poi, piacere. Io so che tu sei allergico a parlare di predestinati, ce l'hai detto per Locatelli che adesso sta avendo un momento di flessione, ma bisogna aspettarlo, ce l'hai detto anche per Donnarumma. Non sta avendo un momento di flessione, però non sta avendo, scusatemi. Perché quando si è giovani, poi porto un esempio eclatante, bisogna difenderli i ragazzi, e questo momento anche non è di flessione perché non sta giocando titolare, perché ci sono dei momenti che la squadra rischia e non metto allo sbaraglio il giocatore più, diciamo, più fragile in questo caso, quindi io lo vedo non come un momento di flessione ma come un momento di difesa nei suoi confronti, perché nulla gli toglie alle sue qualità di quello che ha fatto fino adesso. Io quando nel 2005 sono andato a Barcellona ho trovato un giocatore che già conosciutissimo e non giocava titolare, che era Iniesta, che aveva solo 20 anni, forse 19 o 18, già fatto, lo conoscevo già perché era molto, però giocava e non giocava titolare, e poi abbiamo visto che carriera ha fatto, quindi non è quello che fa adesso, ma quello che scriverà nel futuro. Certo, no, sono d'accordo, il Milan deve assolutamente ripartire da questi ragazzi, deve, non appena Locatelli tornerà in forma, in condizione, eccetera, io mi aspetto che Allegri troverà gli equilibri ancora di più, le convinzioni magari aveva perso un attimo e quindi le riprenderà, poi subentrerà, quindi io non lo vedo proprio con una flessione. Bisogna dargli anche lo spazio per sbagliare, comunque, sì, Demetrio. Giusto. Bisogna dargli lo spazio e il tempo per sbagliare. Vale anche per Caldara, che oggi ha preso 9 sulla Gazzetta dello Sport. Io non so quanti doppietta. Ragazzi di 20 anni abbiano un 9 in pagella da poter sfoggiare. Poi uno poi che fa due gol. Difensore che fa due gol, abbi pazienza. Ma credo non gliel'abbiano dato per i due gol. Ieri ha fatto una partita straordinaria. Sì. A proposito di etichette di predestinato, poi ti viene in mente che la Juventus con Caldara e Rugani si sia già assicurata il futuro. Occhio. Forse programma, una società che programma, forse anche il forse anche il forse. Il forse è ironico, diciamo che è ironico. No, comunque aspetta, Demetrio, c'è Di Francesco, i microfoni di Premium, stai lì che ascoltiamo. Vi sentite penalizzati? Cosa vi devo rispondere? State facendo vedere le immagini voi, ci sono stati troppi episodi sfavorevoli e magari viene meno quella che è stata una grande prestazione della mia squadra dal punto di vista del gioco, della manovra, di quello che abbiamo ricercato, dove non siamo stati bravi e lucidi magari nel concretizzare la grande mole di gioco e la grande pressione in particolar modo del secondo tempo. Poi se andiamo a guardare gli episodi, magari su 4 ce ne danno uno e il rigore doveva essere una punizione a nostro favore, sono episodi che non contano nulla, forse, però è inutile stare qui a parlare quando bisogna essere competenti per poter fare un determinato lavoro. Noi lavoriamo quotidianamente per cercare di fare queste partite, queste prestazioni, rovinarle in questo modo è un peccato, perché c'erano due squadre che cercano come idea di gioco sempre di fare la partita e oggi i miei giocatori si erano innervositi e ho dovuto lavorare per il secondo tempo, non sotto l'aspetto tattico, ma per far capire ai miei giocatori che c'erano ancora 45 minuti, perché anche Domenico Berardi, non un caso che ha sbagliato il rigore, innervosito da quello che gli avevano tolto prima, per di più ammonito su un rigore netto, questo ti fa un po' rabbia e lui si sente a volte un po' defraudato da questo punto di vista, perché ha preso un po' di mira. Ho capito, però questo il rigore è Di Francesco, però non l'ha sbagliato Berardi, non l'ha. Il rigore ha sbagliato Berardi, però ce n'era prima un altro. Ma no, ma tutte le ragioni del mondo, però diciamo che il rigore ha sbagliato Berardi, non l'arbitro. L'ha tirato malissimo. Io penso sempre una cosa, che gli allenatori dopo, quando vanno a parlare, fanno sempre un investimento per il futuro, perché il 90esimo lo sanno, hanno già fischiato, non possono cambiare il risultato. Quindi quello di difendere il più possibile il proprio giocatore, qualche volta dando delle colpe agli arbitri, magari che eccessive, anche se devo dire che sugli episodi che ho visto oggi è partita totalmente condizionata. Posso, guarda, siamo un attimo in ritardo, però rubo altri 30 secondi a Demetrio Albertini, che ha fatto il dirigente, il grande calciatore, parla di investimento degli allenatori quando vanno a parlare dopo la partita. Anche prima della partita investono, quando dicono noi siamo in credito con gli arbitri alla vigilia di una partita. Ma anche quelli che fanno vedere, che fanno il resoconto degli rigori non dati, cosa vogliono? Che alla fine la compensazione di dare qualche rigore che non è stato concesso, non tu lo dice, so, è tutta semina, no? È tutta semina. Sì, i famosi dossier. I famosi dossier. Ogni tanto sorrido quando li leggo, li vedo queste cose. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio. Grazie a voi, ciao. Grazie Demetrio Albertini. 800-24-00-24 non l'ha presa benissimo. Di Francesco però la questione arbitrale è aperta. Ha investito sul futuro. Uscita da Sassuolo, Milan e da Calvarese. Ci fermiamo, torniamo quasi subito, parliamo. Quando torniamo della grande Atalanta, con un dirigente che a Bergamo ha lavorato, ha vissuto e che è stato abituato a lavorare molto con i giovani ad aprire dei grandi cicli, quale penso possa essere quello dell'Atalanta? È vero che poi ci sarà il mercato, Atalanta è davvero una realtà straordinaria. Torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. una squadra di calcio è una comunità dove esistono delle logiche, delle regole che vanno rispettate. Non si è trattato di creare nessun imputato, di non creare nessun capo di imputazione, semplicemente quella di chiarire alcuni aspetti, e l'abbiamo fatto nel migliore dei modi, come in una buona famiglia. Leo ha dato uno scossone, diciamo, abbiamo dato uno scossone insieme per la partita di Oporto. Da quello che tra virgolette è successo con Leo, che sono cose che capitano durante la stagione, ci sono dei momenti in cui ci sono delle discussioni, delle robe, purtroppo con Leo è capitata, ci ha visto tutto il mondo, e magari era diversa se capitava dentro lo spogliatoio. In quel momento lì la prima cosa che ho pensato è risolvere il problema e vedere il positivo, perché dopo alla fine da tutte le cose negative c'è sempre il positivo. Se si riesce a vedere il positivo, poi è normale che tutto viene di conseguenza. Compito della società e quindi dei dirigenti è quello di supportare l'attività quotidiana dell'allenatore, della squadra, intervenire. In questo caso l'abbiamo fatto, ripeto, con lo spirito di capo famiglia. Questa situazione era un po' sotto gli occhi di tutti e quindi c'è stata un po' un'enfasi, direi, sproporzionata rispetto a ciò che è accaduto. Grande forza della Juventus è che dopo 5 giorni può parlare del caso Bonucci così e far finta che non sia successo niente. Enfasi eccessiva. No, appunto. Anche no. Un fatto che è successo sotto gli occhi di tutti, ha ragione Allegri in Mondovisione, certo, con Bonucci che è andato in tribuna a Porto, quindi mi sembra un caso abbastanza conclamato, vale il discorso dell'altro giorno del muro di vetro. Aggiornamento da Twickenham, finalmente una bella Italia alla terza esibizione del 6 Nazioni, 17 Inghilterra, 15 Italia, che ha appena fatto una meta, ha realizzato una meta ma non ha trasformato. Comunque parliamo di calcio. Mancano 10 minuti alla fine e a proposito di aggiornamenti, Barcellona in vantaggio al Vicente Calderón contro l'Atletico Madrid, gol di Rafinha a metà della ripresa. Pierluigi Pardo, ciao. Intanto 22 a 15, appena fatto meta l'Inghilterra, abbiamo tirato male. 22 a 15 per l'Inghilterra. Vabbè. Eccoci qui, Pier. Ma insomma, domenica di rigore, Sì, di cosa vuoi parlare? Ma di cosa dobbiamo parlare? Io ho deciso, ho chiamato Graziano Cesari, ti ho detto che domani Tiki-Taka la conduce direttamente lui, perché insomma è successa una quantità di cose che veramente devo dire che De Marco è da 25 minuti che sta facendo la moviola. Sassuolo Milan è la prima partita al mondo dove la moviola dura più della partita stessa. E anche Lazio-Udinese, insomma, diciamo, il rigore tu l'hai capito? No, lo analizzavamo prima con Vocalelli, anche il rigore è un rigore inventato. Convochiamo poi qualcuno che l'abbia capito in Mondo Visione, insomma su tutto il pianeta. 800240024, chi l'ha capito ci chiami. No, perché poi quando in effetti quando c'è qualcosa di completamente inventato, nel senso che quando gli arbitri vedono qualcosa che non è successo fa particolarmente effetto, no? E sbagliano pure quando non vedono delle cose che succedono, ma quando c'è proprio vedono qualcosa che non è accaduto. Poi la Lazio si era lamentata per degli altri episodi in precedenza, quindi adesso faccio fatica a farti la moviola di tutta la partita, è sufficiente quella di Sassuolo Milan. Su Sassuolo Milan è successo veramente di tutto. Comunque menzione a Saia, l'addizionale di Lazio Udinese che ha chiamato il presunto fallo di mano di Ali Adnan. Allora, Gianni da Firenze, Gianni? Sì, buonasera. Eccoci. Volevo domandarvi se per voi, ecco, la Juve è appunto abbastanza forte per andare avanti in Champions League, per sedere, come dire, a quel famoso tavolo con le quattro grandi, Bayern, appunto Real Madrid, ecco. Dammi la griglia, Pier, dopo aver visto il giro d'andata degli ottavi. Ma la griglia l'abbiamo fatta l'altro giorno, dopo il giro d'andata degli ottavi. Secondo me le due più brillanti sono state sicuramente il Bayern più di tutte e anche il Real Madrid, al di là del fatto che ci auguriamo ovviamente che il Napoli faccia l'impresa al ritorno. E poi ci metto Juve e Paris Saint-Germain. Tavola 4. Sì, tavola 4 o seconda fila, dipende che tipo di gergo vogliamo utilizzare. Poi la Champions non è il campionato, quindi è più difficile fare pronostici e previsioni, perché molto dipende dalla singola partita. È già di per sé più aleatoria, no? Nel senso che si basa su gli episodi, pesano di più e pesano anche i sorteggi, quindi dipende anche con chi viene accoppiato. È chiaro che se capiti col Bayern è diverso che se capiti con Siviglia o col Benfica, no? E quindi questo secondo me in qualche modo inciderà. Però la Juve, insomma, mi sembra solida, la Juve ha una forza difensiva che è indiscutibile e davanti ha molta pazienza e tante qualità, quindi quasi sempre poi il gol arriva. Siamo arrivati a 6-2-0 nelle ultime 9 vittorie, no? Nelle ultime 9 partite, 9 vittorie di cui 6 ottenute col 2-0, con una capacità di gestione delle partite abbastanza forte, anche ieri contro l'Empoli, perché l'Empoli non è Barcellona, però è un po' sempre quella cosa lì, una squadra anche bruttina in certi momenti, ma che poi tanto sai che troverà la soluzione, quindi... Sì, che poi la porta a casa, come del resto ha fatto ieri. Intanto ha pareggiato l'Atletico Madrid, gol di Diego Godin, 20 minuti alla fine, colpo di testa. Saluto Pierpaolo Marino, ciao direttore. Buonasera, ciao. Ciao. Allora, ti giro un messaggio che è arrivato via WhatsApp, che secondo me tiene insieme due degli argomenti di oggi. Vista la giornata degli arbitri, l'Atalanta è fortunata a essersi salvata, non andrà certamente in Europa. Direttore, che sciocchezza è mai questa? Io l'ho letta, direttore. Che stupidaggine è mai questa? Non commento proprio. Bravo. Cosa vuoi dire? C'è niente da dire. Ci va o no in Europa l'Atalanta? Ma che stai dicendo? No, questa è una domanda adesso, a prescindere dagli arbitri. In Europa, dipende, possiamo discutere su quale Europa. Che vada in Europa mi sembra acclarato. Io per scaramanzia non parlo perché allora ci arrendiamo se non ci tengo molto perché so cosa significa per Bergamo ritornare in Europa dopo tanti anni da quella Coppa delle Coppe, quindi al di là della classifica c'è un fatto che riguardate le partite dell'Atalanta contro le squadre di vertice, esclusa la Juventus. Cioè l'Atalanta ha battuto due volte la Roma, perché il secondo tempo di Atalanta-Roma io non ho mai visto, compreso la mia esperienza insieme a Spalletti con l'Udinese per quasi 4 anni, non ho mai visto una squadra di Spalletti in difficoltà contro un avversario come nel secondo tempo di Roma-Atalanta. Una cosa imbarazzante veramente. Sì, vero. Ha fatto due vittorie col Napoli, ne ha fatta una con l'Inter. Esatto. Ha perso con la Lazio, ma era un'altra Atalanta perché era nelle prime tre giornate. Differenza rispetto all'Inter, con la Lazio. La differenza rispetto all'Inter, che invece le grandi, non, a parte la Juventus, non riesce a battere mai. Stasera sarà cruciale la partita contro la Roma. Ma poi come gioca l'Atalanta? L'Atalanta gioca in maniera meravigliosa, direttore. Questo anche qui bastano un paio d'occhi per giudicarla, esattamente come gli episodi di Sassuolo, di Reggio Emilia. Io aggiungo il fatto che, a differenza di tutte quelle altre che stanno facendo compagnia all'Atalanta in questo momento, la squadra è l'unica squadra che può giocare leggera, ma proprio leggera, ne parlavo anche con Gasperini. Ogni domenica è una festa, è una sfida, ma una cosa un da affrontare con il sorriso. Direttore, in cui invece comincerà a sentire anche un po' di pressione? Ma non credo, perché si è creata un'atmosfera magica, perché io vi dico, vi parlo da una persona che conosce gli 8-9 undicesimi di quella squadra e qualcuno l'ho visto crescere addirittura, per me che sono un uomo di calcio, ormai festeggio il 40° anno di calcio da dirigente, quindi non è facile farne tanti perché ho iniziato nel 77, però una felice congiuntura come quella lì io non la ricordo nella mia vita calcistica di circa 40 anni, cioè giocatori che rendono da un anno all'altro in quella maniera lì, una squadra che gioca, che ti fa stropicciare gli occhi contro la Roma, contro il Napoli, io non ho mai visto una cosa del genere sinceramente, e mi auguro per loro e per Bergamo, che è una città, e per Ipercassi voi che sono persone straordinarie, che questa atmosfera magica continui, perché è una bella favola da raccontare, veramente bella. Allora, abbiamo il traffico, la domanda con cui ripartiamo da Pierluigi Pardo è se Caldara è un predestinato o no. Ripeto, io non so quanti a 20 anni neanche compiuti hanno un 9 in pagella della Gazzetta da mettere in curriculum. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Tutti convocati. Ho avuto la possibilità di sbirciare la sua prestazione, è stata una prestazione della squadra, anche la sua particolarmente buona. È un giovane che sta crescendo nell'ottica poi di diventare possibilmente un titolare della Juventus, ma è giusto che faccia la sua esperienza, come si suol dire, in una squadra di provincia, e quindi siamo molto contenti e orgogliosi di aver fatto questo acquisto. Caldara, ha troppe emozioni in una notte? Sì, troppo oggi. Già incoronato titolare della Juventus, insomma. No, piano, ce ne vuole per arrivare là. Però, insomma, ieri ha fatto questa una partita davvero straordinaria. Sapete cosa fa Caldara nel tempo libero? Sì. Lo sai tu, Piera? Cosa fa? No, che fa Caldara? Tu lo sai, direttore? No, non lo so. Legge Tolstoi. Hai capito? Ah, beh. Allora io vi dico che è un predestinato. Non legge dei libri, eh? Sì, legge Tolstoi. No, questa mi è nuova, anche se... Sì, perché ormai è un po' troppo, lo trovo un po' frivolo, lo trovo un po' leggero, un po' troppo facile, quindi... Da tutto Tolstoi. No, devo dire, vabbè, Caldara ieri ha fatto una partita incredibile, ma credo stia facendo una stagione incredibile, ed è veramente qualcosa di quasi irripetibile. Mi ricordo un po', che ne so, il Valencia dei fenomeni di 15 anni fa, alcuni dei quali poi, per esempio, Mendieta non si erano ripetuti all'estero. Però ecco, mi sembra veramente un gruppo di giocatori, una nidiata di giocatori speciali in un ambiente speciale. Aggiungo anche il fatto che, non dimentichiamoci, che l'Atalanta ha fatto 3 punti nelle prime 5 partite. Sì. Per carità, non è che non contino, contano pure quelle prime 5 partite, non è che le puoi togliere, non te le puoi abbonare, però questo è qualche modo ci dice anche altro, no? Ci dice che dopo una partenza complicata con allenatore nuovo, con scelte un po' più conservatrici, da quando Gasperini ha trovato la quadra, questa squadra sta facendo, è pienamente in zona Champions, perché senza quell'inizio avrebbe 15 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Quindi questo secondo me è un'ulteriore sottolineatura di quanta continuità ci sia stata. E sai, Napoli-Atalanta poteva essere la partita perfetta per cominciare a vedere un calo, che invece non... Invece l'abbiamo visto del Napoli. Beh, io torno su Caldara, a maggior ragione se legge Tolstoi è il profilo perfetto per la Juventus, no, direttore? Ma sicuramente, non so pure se non, non per Cavinnovo legano so tutti Tolstoi, sì. No, infatti. Però è per il tipo di, insomma, loro spesso vanno a scegliere prima l'uomo e poi il giocatore. L'ho conosciuto, sì, è veramente un ragazzo così, vive nel paesino in cui è nato, con i genitori eccetera eccetera, e nel tempo libero ama letture impegnative. Direttore, ognuno ha le sue passioni. Io ho interagito con Caldara per tanti anni, però fino a quando giocava... No, ho interagito per Zingonia lì, nelle giornate di Zingonia, perché gli allievi giocavano lì a Zingonia, come si allenava la prima squadra. No, Caldara ha debuttato in Serie A con me e ricordo che procurò un rigore all'ultimo minuto a Catania, nella partita Catania-Atalanta, una partita di fine campionato dove il Catania era già retrocessa. Da lì a pronosticare quello che sarebbe successo in 3 anni è una cosa che io con onestà devo dire incredibile, anche se Caldara era uno dei più promettenti delle giovanili, naturalmente, però quanti delle giovanili poi non fanno quel salto di qualità in un paio di stagioni? E devo dire che fu bravissimo Fagiano, l'allora direttore sportivo del Trapani, che ora è al Parma, che subito dopo quella partita mi telefonò e mi chiese subito Caldara per il Trapani in prestito. No, ma sai, direttore, sai un altro che mi ha impressionato e mi sta impressionando? Un giocatore che era perso, no? Molto giovane, ed è Petagna praticamente aveva quasi deciso di smettere aveva di giocare. Aveva un grande avvenire alle spalle. Da quel giorno in cui Galliani disse Petagna è incedibilissimo, te lo ricordi? C'era Balotelli, doveva essere vice Balotelli. Da lì è stato tutto un disastro, girovagando per l'Italia, e a un certo punto lui aveva praticamente deciso di smettere. Adesso non sta facendo un campionato alla Vardi, però sta facendo un'ottima stagione. Sicuramente, io a vederlo giocare in Serie B quando l'Atalanta l'ha preso l'estate scorsa, mi chiedevo come mai. Questo, io ripeto, sono sincero, non è che devo camuffare qualcosa, perché poi ci sono quelli che dopo dicono sempre io l'avevo detto. Io mi sono chiesto come mai, e poi devo dire che in tutto questo c'è anche una mano di un allenatore che sta facendo vedere che non aveva sbagliato la Juventus quando gli mise i suoi campioni della primavera in mano, cioè è un allenatore che forse è più adatto a una politica come quella che deve e dovrà fare l'Atalanta anche dopo questa stagione favolosa, cioè il completamento, la crescita dei giovani e fare dei miracoli, come creare delle situazioni magiche come quella che si è creata quest'anno. E Petagna è diventato un giocatore totale, cioè non si sa più che cosa è di ruolo, perché fa più di quantità che di finalizzazione, cioè è un giocatore che sta diventando dalla tre quarti in su, ma anche forse da metà campo in su, il giocatore che nell'Atalanta fa quasi la differenza, pur non comparendo in zona gol dove invece ci vanno i difensori. E quindi l'Atalanta ha 5 gol di Caldara e 4 di Conte, è la squadra che ha più gol davanti alla Juventus, ha più gol dei difensori, credo siano 13 dopo ieri pomeriggio. Sì. Posso chiedere al direttore, abbiamo 30 qualcosa? Secondi però, vai. Sì, su Sarri, nel senso che poi alla fine ovviamente c'è stata la polemica con De Laurentiis, la partita di ieri rischia un po' di, ovviamente la settimana che ha davanti rischia un po' di gettare un'ombra sul lavoro complessivo di Sarri. In fondo adesso la classifica è una classifica normale, non sì, così esaltante, no? Sì, sì, rischia questa partita di gettare un'ombra, però non lo merita Sarri, perché tutti pensano all'Atalanta come se il Napoli avesse perso con una provinciale, ma non è così, perché l'Atalanta di quest'anno è una grande, cioè dobbiamo, e quindi ci può stare che il Napoli perda, perché secondo me il primo tempo non ha giocato neanche male il Napoli. Vero. Vero. Dobbiamo fermarci, vero? Ci dobbiamo fermare, grazie direttore. Ciao direttore. Assolutamente, buonasera. Grazie per Paolo Marino. Pier, resta con noi, 800 24 00 24. Dopo il GR apriamo la pagina di Inter Roma e dello stadio della Roma, perché io ancora non ho capito chi ha vinto e chi ha perso. 3, 4, 5 anni, quanti anni viene fatto lo stadio? Io non sono ferratissimo in questo, se tu mi aiuti poi ti dico se sono morto oppure no in quegli anni lì. Riuscire a trovare la soluzione corretta per tutti è il massimo del risultato. Bravi a tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Convocati. Possiamo chiamarlo il progetto 2.0, sarà un progetto innovativo. Abbiamo ottenuto un taglio delle cubature da oltre 1.100.000 metri cubi, siamo scesi della metà. Prevede la completa messa in sicurezza del quartiere di Decima dal punto di vista del rischio idrogeologico, la costruzione di una nuova fermata sulla Roma Lido, la riqualificazione dell'asse viario via Ostiense e via del Mare, la costruzione di edifici bassi, quindi via le torri. questo è un po' un giorno storico, non soltanto per la Roma, che rende più concreto il sogno di avere un'infrastruttura moderna, ma appunto anche per la città, perché è un modo di collaborare insieme con le istituzioni per cercare veramente di migliorare quello che è anche un po' la cultura di interventi di questo tipo. Siamo felici che l'amministrazione, nonostante l'abbia ereditato in una forma diversa da quella che avrebbe voluto fare, ha deciso di abbracciarlo, migliorarlo, e finalmente possiamo dire che lo realizzeremo insieme. Tre, quattro, cinque anni, quanti anni viene fatto lo stadio? Io non sono ferratissimo in questo. Se tu mi aiuti, poi ti dico se sono morto oppure no in quegli anni lì. Io lo sapevo che questa questione poi era in buone mani, perché io Baldissoni lo conosco bene, il sindaco mi aspettavo che avesse poi una disponibilità per metterci la profondità dei suoi pensieri in questa questione, e riuscire a trovare la soluzione corretta per tutti è il massimo del risultato. Bravi a tutti. Chissà se Spalletti sarà morto o no quando apriranno lo stadio della Roma, che sarà nel 2020-2021 o chissà che. Allora, Pierluigi Pardo, che è ancora con noi, Pier. Eccoci. C'è Luca Telese, che saluto. Ciao. Eccoci. Luca. Eccoci. Allora, io dico una cosa. Abbiamo sentito prima anche Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport, dire chi ha vinto, chi ha perso, hanno pareggiato. Invece io voglio sapere chi ha vinto, perché non l'ho capito. Poi io non abito a Roma, non so nulla di cubature, non so nulla di nulla. So che Lotito adesso ha fatto l'ironico, ha detto: beh, ho visto che sono cadute tutte le preoccupazioni idrogeologiche, adesso facciamo anche lo stadio della Lazio, non lo so. Luca. Ma guarda, io, è una storia molto complessa, quindi è difficile fare delle semplificazioni, però io avevo un grosso dubbio, cioè che lo stadio fosse un cavallo di Troia, perché del 1.100.000 metri cubi del progetto originale, lo stadio occupava, e Trigoria occupavano solo il 14%, in un'area che secondo il piano regolatore doveva essere destinata solo a verde e impianti sportivi. Quindi in sostanza c'erano due anomalie in questo progetto. La prima è che la proprietà dello stadio è di una società di Pallotta e di Parnasi il costruttore. La seconda è che i terreni che decubicano il loro valore erano di Parnasi e della famiglia Armellini, e quindi anche loro guadagnavano due volte. La terza, che la proprietà non era della società, ma era quindi una legittima... Vabbè, insomma, non ti piaceva, privati, non ti piaceva. No, e che tutto questo avveniva senza una enorme contropartita, con la società che regalava un pezzo di agroromano fuori dal piano regolatore a un'iniziativa di privati. Allora l'idea che dopo una trattativa, che secondo me è potuta avvenire proprio perché 5 Stelle sono dei matti, perché non sentono le pressioni, perché se ne possono fregare di famo stadio, no? Di tutta la propaganda legittima anche che c'è stata, a un certo punto da queste due squadre che non si sono parlate, i matti del Campidoglio e i lupi, non quelli della Roma ma quelli americani, alla fine è uscito fuori un compromesso che ha tagliato le due torri. Io se ti posso dire la verità, avrei preferito che tenessero le due torri di Beskin, perché erano molto belle, e magari tagliassero un po' di centro commerciale, che a Roma non è che ne manchino. Ma alla fine della fiera, se si fanno un po' di milioni, un po' di centinaia di migliaia di metri cubi di cemento in meno e si fa lo stadio, perché no? Ma mi fate capire allora se i tifosi a Roma hanno ragione ad esultare, Pier? No, ma i tifosi a Roma hanno ragione ad esultare, perché sicuramente l'obiettivo che può rappresentare appunto un asset importante negli anni per la Roma è raggiunto con dei punti interrogativi, con delle incognite che mi sembrano abbastanza chiare, abbastanza precise, anche con delle incongruenze, perché poi alla fine molte delle opere, diciamo, invece di interesse pubblico verranno sacrificate. Sì, c'è anche questo mistero. Oggi il Messaggero diceva 130 milioni di euro in meno di opere sicuro, pubbliche. Vediamo. Nel senso che nel 2014 era stato fatto un accordo nel quale c'era sicuramente una quantità di cubature molto importante che era stata concessa ai proponenti, in cambio di tutta una serie di opere pubbliche pagate completamente dai privati, che in qualche modo... Questa cosa nasceva dal fatto che lo Stato non ha i soldi, il Comune non ha i soldi per poter fare certe opere, e allora preferisce far pagare queste opere ai privati in Perfetto. Cambio delle cubature. Allora fatemi capire una cosa, Pier, fatemi capire una cosa. Adesso queste opere pubbliche che comunque saranno, penso, necessarie, le pagate tue Telese? No, ma non è così. Le opere pubbliche ammontavano nel progetto originale a 440 milioni di euro IVA compresa. Immaginate che tutto il progetto cubava 1.700.000 euro. La partita un miliardo e 700 milioni di euro. La partita di giro per cui si dice queste opere venivano regalate alla città non era esattamente così, nel senso che per costruire i costruttori, il consorzio costruttore, la società veniva dispensata da qualunque onere edificativo, quindi praticamente la società Roma Stadio costruisce le opere pubbliche e risparmia sulle tasse che avrebbe dovuto pagare. In questo modo ottiene un doppio vantaggio perché valorizza anche i suoi terreni, quindi non è che sono regali di Babbo Natale. Ora forse si ridurrà un ponte. I suoi terreni. Nessuno, non è che beh, è ovvio, non è che c'è la carità. Non è che vengono regalate, però, cioè, spieghiamolo. Però... Cioè, se io pago per mettere un'insegna al mio negozio e mi viene abbonata quell'insegna, se io pago per mettere un tavolino in piazza e mi viene abbonato quello, e qui stiamo parlando di oneri edificativi, cioè milioni di euro, è ovvio che avrò una contropartita, però quelle opere non venivano regalate, è come se fossero state scontate dal prezzo che la società... No, ma nessuno aveva dubbi che venisse regalato nulla. Assolutamente, nessuno ti regala nulla. Su questa cosa, la riduzione non avviene solo perché anche qui è un po' più complessa. L'assessore Berdini, che fra l'altro era sempre stato scettico su Tor di Valle, annunciò che c'era un ponte che era stato già previsto dal comune fuori da questo piano, che poteva essere, come dire, inserito nel piano delle opere spostandolo più vicino a Tor di Valle, e in questo modo si risparmiava il costo delle opere preventivate. Quindi non è che viene solo tagliato, il ponte ci sarà lo stesso, forse viene reimpassato in questa nuova direttrice urbanistica. Resta sicuramente il ponte pedonale strallato, che è quello con le funi che dovrebbe collegare la stazione, e poi viene potenziata anche perché sennò non ci arrivi allo stadio della Roma quando sarà costruito. Abbiamo il traffico, siamo anche un attimo in ritardo, quindi vi chiedo un minuto di pazienza. Poi la domanda che vi giro è questa, cioè, siccome Pallotta, ne parlavamo anche prima con col direttore del Corriere dello Sport, giustamente ha usato la leva negli ultimi giorni per fare pressione: senza lo stadio qui si smantella, la Roma deve vendere, andiamo via, eccetera. Oggi che ha la certezza dello stadio, multimilionaria. E aspettate voi tifosi della Roma che investa da subito per rendere la Roma grandissima. Traffico, torniamo. Tutti convocati. Convocati. Un paio di aggiornamenti: il Barcellona ha vinto 2-1 a Madrid contro l'Atletico, gol decisivo di Messi a 3 minuti dalla fine. Manchester United sta vincendo 2-1 con il Southampton, è finito il primo tempo proprio in questo momento. Finale di Coppa di Lega inglese, Ibrahimovic, Lingard, e poi proprio pochi istanti prima dell'intervallo sapete chi ha segnato? Gabbiadini. Tre partite, tre gol. Dai, rispondetemi la domanda che ho fatto prima del traffico. Allora, siccome Pallotta ha usato la leva del si smantella tutto se non c'è lo stadio, ora che la prospettiva dello stadio diventa concreta, giustamente i tifosi a Roma, lo diceva anche il direttore del Corriere dello Sport, devono aspettarsi che da subito Pallotta faccia una Roma grandissima. Basta fair play finanziario, basta conti col bilancino, basta cessioni. La risposta sono due cognomi, cioè Pallotta, dopo aver ottenuto Tor di Valle in condizioni miracolose, dovrebbe assolutamente rispondere con due nomi, che sono Nainggolan e Manolas, una squadra che vuole crescere e vuole finirla con la squadra vetrina che prende i giocatori in prestito e poi compra solo se funzionano, deve partire da due punti fissi, e quest'anno hanno fatto faville, deve tenere questo difensore e questo centrocampista. Ma invece Manolas va via, no? Ma non lo so se va via, è chiaro che quest'opera, io ti dico per l'esperienza che ho, avendo visto un po' di altri stadi in giro per l'Europa, al di là di situazioni veramente molto particolari come quella della Juve, dove le condizioni per la costruzione dello stadio sono state nettamente più favorevoli, ma insomma quello che è successo in giro per il mondo è che lo stadio è un investimento di lungo periodo, nel senso che il tipo di investimento che viene fatto è un investimento molto oneroso. È vero che viene finanziato dai privati, si vanno a cercare ovviamente tutta una serie di investitori, quindi non è direttamente la società che si fa carico di questo, però aspettarsi che c'hai un progetto per lo stadio che viene varato e quello improvvisamente si traduce in investimenti sul mercato, secondo me è abbastanza falso. D'accordissimo, Wenger, con Pardo. Wenger, all'Arsenal, non, salvo che sul mercato, salvo che sul lungo periodo, no, è sul lungo medio periodo, è sul medio termine, però d'accordissimo con te, secondo me è un po' semplicistico dire adesso con lo stadio mettiamo 120 milioni sul mercato. È evidente, Carlo, poi che nel momento nel quale poi si sta con il discorso di immagine, di comunicazione e di scelte, di strategie, è evidente che Pallotta in questo momento, dopo che ottiene questo tipo di risultato, per come si era esposto, ci si aspetta che faccia qualcosa. Però scusate, non è che, io però sono partito da una premessa, Pier Luca Telese, cioè Pallotta ha usato la leva contraria per spingere lo stadio e ha legato l'idea di poter fare una grande Roma alla prospettiva di poter, sì, ma non ha detto che la fa domani, rinforzare, non ha detto che la fa, ha fatto dire che a giugno avrebbe venduto tutti, e allora a giugno mi aspetto che, visto che è successa la cosa contraria, faccia il contrario. Ma ti dico anche che secondo me l'umore dei tifosi, che non sono certo dei boccaloni come dice Roma, è proprio questo. Pallotta è sempre stato un po' sul filo, ha sempre dato, tolto, dosato le sue apparizioni e le sue sparizioni con sagacia e furbizia. Adesso le chiacchiere arrivano a zero. O quest'anno la Roma esce dal ciclo del secondo postismo, oppure non lo farà mai più. È ovvio, poi parliamo di uno stadio che dovrebbe essere inaugurato nel 2020, nel 2020 la Roma deve giocare in Champions, se ha quello stadio. No, ma sicuramente, Ma guarda, lo stadio ha dei benefici enormi. Il primo beneficio è di natura strettamente economica, perché diventa una struttura che può lavorare a quel punto 365 giorni all'anno. In un mondo del calcio come quello italiano, che è molto debole dal punto di vista del match day, no? Nel senso che si spende poco il giorno della partita, è un mondo molto legato ai diritti televisivi, dove le società faticano ad avere altri introiti col merchandising, appunto con la biglietteria e con tutto ciò che riguarda il match day. Riuscire ad avere uno stadio di proprietà significa far sì che ogni singolo grammo di amatriciana, ogni singolo dog che viene venduto questo accade nel medio termine. Ma ti ricordi la Juventus quanto ci ha messo ad arrivare dove è adesso? Non ci ha messo un giorno, eh. La Juventus ha avuto sicuramente delle condizioni, ripeto, quasi irripetibili, quasi di costruzione. Siamo d'accordo. C'è qualche elemento, ti dico la verità, l'altro giorno ero a Porto con alcuni amici, molti dei quali li conoscete, insomma, da Sarica a Rocca, molti amici bianconeri che erano lì in trasferta in casa del Porto, e sottolineavano il fatto che esiste anche un aspetto di struttura dello stadio, nel senso che loro lo pensano, e secondo me non è così peregrino. L'Olimpico è un po' un limite per il pubblico della Roma, ci metto anche per quello della Lazio, cioè è uno stadio che non aiuta moltissimo la squadra di casa. Chiaramente un nuovo stadio da 52.000 posti, da 60.000 posti, con tutto l'entusiasmo che sicuramente ci sarà, soprattutto all'inizio, per una struttura nuova, con lo stadio che sicuramente ci sarà sicuramente un'impennata degli abbonati, per quelle che sono le caratteristiche del tifo della Roma, c'è anche questo elemento qui, secondo me, che non è secondario. Effetto stadio. Però, per uscire dal secondo postismo, come dice Luca Telese, cioè, questo vuol dire mettere un 150 milioni sul mercato della prossima estate, tanto per essere io voglio dire che la Juve un anno prima dello Juventus Stadium li ha messi e prima, un anno prima, cercando di aprire un ciclo, poi sbagliò tanti acquisti. Io però non credo che la Roma faccia un mercato di questo tipo, cioè io non credo che la Roma, dal punto di vista pratico, io non penso che la notizia dello stadio possa equivalere all'arrivo di Al-Khelaifi. Scusami, però Pier, perché? Cioè, la domanda è perché? Perché fino ad ora l'unico freno agli investimenti nella narrazione di Pallotta era proprio quello. Ho il volano per far volare questa squadra. Devo far quadrare i conti, perché tutte le risorse, anche per i tempi, sono investite nella società, nella progettazione, nella procedura. E poi diceva: siccome sono in Italia, finché non vedo che c'è l'ok definitivo, l'ultimo timbro, io non posso partire. Quindi adesso tutto questo cade. Adesso c'è. Cioè adesso Pallotta deve aprire. Io non voglio dire che faccia follie. però almeno evitare di avere come dire, quel turnover che ogni anno questo sicuramente, quello che si era costruito, ma per uscire dalla logica del secondo postismo contro, come dici tu, contro questa Juve, non basta tenere Manolas e Nainggolan, bisogna fare una campagna acquisti. Questo riguarda ovviamente la Roma, riguarda anche il Napoli, riguarda anche le squadre che sono in crescita, ad esempio l'Inter dà qualche segnale da questo punto di vista. Bisogna crescere tanto, bisogna spendere, cioè bisogna fare la rivoluzione. La rivoluzione, ti assicuro che finora già sarebbe un cambio di rotta, non che Nainggolan sicuramente il giocatore sarebbe meglio di niente, ma non è che se tieni Manolas e Nainggolan, cioè però magari se eviti per la millesima stagione consecutiva di ripartire da zero in difesa, come è stato fatto spesso anche nell'era Sabatini, e poi qualcosa vedi anche in campo, Pier. Però insomma abbiamo tempo per andare avanti, perché secondo me questo sarà il tema dei prossimi mesi, adesso che abbiamo smesso di fare gli urbanisti e torniamo a fare i commentatori di calcio. Grazie Luca Telese. Ciao Luca. Ciao Luchino. Saluto Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao, buonasera a tutti. Così piacere, quanto tempo. Quanto tempo. Senti, ci dici due cose invece su come arriva l'Inter questa sera, Brozovic o Joao Mario o Banega o difesa 3? Sono i dubbi che stiamo aspettando di comprendere anche noi all'uscita della riunione tecnica, perché ieri non ha provato praticamente nulla, diciamo, dal punto di vista tattico, però aveva parlato molto bene del recupero di Brozovic, era molto contento di Brozovic e tutto lascia pensare che Brozovic potrebbe giocare dal primo minuto, però lui secondo me non aveva ancora deciso, ha sicuramente deciso adesso, e in riunione tecnica stiamo aspettando di capire, una volta fuori dalla riunione tecnica, che Inter vedremo. C'era anche un'ipotesi di un Inter iperoffensiva col 3-4-2-1 con Perisic e Candreva larghi nella linea 4 e Brozovic e Joao Mario dietro ai cani. È una soluzione molto molto offensiva, ma forse nemmeno poi troppo lontana dalla realtà. Vediamo. Ti faccio una domanda: il fatto che ieri sera il Napoli abbia perso, scenario che apre ad alcune valutazioni, secondo te in 24 ore può aver fatto cambiare qualche idea a Pioli? Può essere, non è sbagliato quello che dici, perché l'Inter a questo punto ha una grande occasione per rimescolare completamente le carte là davanti a livello di qualificazione Champions League, perché verrebbe coinvolta inevitabilmente anche la Roma nel discorso dei primi tre posti, anche perché la Roma avrà questa settimana il derby, avrà due derby nel giro di tre settimane, un mese, non mi ricordo che distanza c'è, ma poi avrà sicuramente un altro turno di Europa League. Insomma, anche Roma-Napoli sabato. E Roma-Napoli sabato come sconto diretto. Si vengono a creare delle situazioni molto favorevoli a un Inter che si è guadagnata questa occasione con 9 vittorie nelle ultime 10 di campionato, ma che si trova nell'incredibile situazione appunto di aver conquistato 9 vittorie nelle ultime 10 di campionato, ma di poter essere fuori dal discorso Champions se dovesse perdere questa sera. Insomma. Quindi è tutta una gara da dentro e fuori per me. Pier, cosa ti aspetti tu a livello di atteggiamento questa sera da Pioli? Ma mi aspetto l'atteggiamento di una squadra sicura, di una squadra in salute, ma è in salute anche la Roma ed è sicura anche la Roma, è veramente... Ma secondo te va per vincerla a tutti i costi, o il fatto che il Napoli ha pareggiato magari suggerisce che forse un pareggio alla fine è un punto guadagnato sul Napoli? Secondo me l'Inter deve provare a vincerla e la Roma deve provare a vincerla, poi è ovvio che il pareggio potrebbe essere un risultato alla fine, ed è un paradosso, però potrebbe essere un risultato da non buttare via per tutte e due, che l'Inter rimarrebbe almeno 5, però l'Inter per casa oggi ha la grande occasione di spagliare. Dipende da come ragionano queste due grandi squadre. Se ragionano in grande, la Roma ragiona in prospettiva scudetto e l'Inter deve ragionare in prospettiva addirittura secondo posto, e devono andare a giocare per vincerla questa partita. Certo. Poi come dici tu, se è un quarto d'ora dalla fine, 20 dalla fine, esatto, lì, allora forse ti conviene fare due calcoli e dire calma, sì, pensiamo all'obiettivo minimo, ecco. Però in assoluto è chiaro che una partita del genere è ancora più difficile da cifrare rispetto ad altre situazioni, perché l'importanza degli scontri diretti in un campionato abbastanza noioso come questo, noioso nel senso che quasi mai assistiamo a una sorpresa, no? Cioè la differenza tra le grandi e le piccole è enorme, per cui è una tragedia se una di queste grandi squadre fa un pareggio certe volte contro, esatto. Pensa a Napoli-Palermo, certo, Napoli-Atalanta ormai è uno scontro diretto, certo. Pensa a Napoli-Palermo che cosa è stato, Sampdoria-Roma cosa è stato per la Roma, e quindi è ovvio che in questo tipo di situazione quando poi arriva lo scontro diretto lo approcci veramente come fosse una finale scudetto o comunque una finale Champions in questo caso. Intanto le ultime dicono che c'è un ballottaggio con Nagatomo favorito a sinistra su Ansaldi e che forse gioca Joao Mario in un Brozovic, ma è davvero questione di minuti, ha ragione Mirko Graziano, riunione tecnica che se è finita davvero da qualche istante. Grazie Mirko. Ciao Mirko, a presto. Grazie, buona partita. Io saluto anche Pierluigi Pardo. Che ritroviamo domani. Ciao Pier. Non abbiamo affrontato, diciamo, il tema principale. Sì, ma allora facciamo così. Resti invece con noi altri tre minuti. Lo affrontiamo subito dopo la pausa. Siete due bambini dell'asilo. La schedina dell'asilo. Pausa e poi vi diciamo chi ha vinto. Due bambini dell'asilo. C'è un verdetto netto, ve lo diciamo. Netto, preciso. Convocati. Tutti convocati. Allora, io non ho paura di quello che è successo. Vi do un aggiornamento. È cominciato il secondo tempo. Manchester United, Southampton 2-1. Vi aggiungo che sullo 0-0 è stato annullato un gol regolarissimo al Southampton. Sapete a chi, Pier? A Gabbiadini. A Gabbiadini. Questa era facile. Ha fatto il gol del 2-1. Allora io mi prendo tutta la responsabilità per aver creato un mostro, sì, quello che siete voi, però voi ci avete messo del vostro, siete veramente i due bambini dell'asilo. Allora c'è un verdetto netto, c'è un verdetto netto, sì, dell'asilo. No, dell'asilo, delle elementari. Allora c'è elementari sono più evoluti. C'è un verdetto netto, mancano due partite alla fine, ma non cambierà il verdetto. Io vedi, sono onesto, non faccio come Pier che quando perde. Allora Pierluigi Pardo 5, Giovanni Capuano 3, quindi comunque vada, c'è una differenza in Inter-Roma, ma che nel pronostico potete pareggiare. No, possiamo al massimo finire 5-4, insomma. Esatto, abbiamo un pronostico uguale di 2, quello di Fiorentina-Torino, quindi Pierluigi Pardo vince questa settimana, sì, la schedina. Sì, il totale, sì, voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare per questo straordinario successo la società, Simona, i tifosi, i compagni, Simona. Grazie. Sì, mia moglie, certo. E poi voglio ringraziare la mia famiglia e davvero un risultato straordinario e voglio anche comunque esprimere tutto il mio affetto per l'avversario che anche se è nettamente più scarso di me però comunque si è impegnato e quindi faccio grande bocca al lupo per il futuro della stagione. 4-4, ciao Pier, a domani. Ciao. Anzi, a venerdì prossimo, ciao Pier. Palla dentro, deviazione, rete, e avanti l'Atalanta, ha segnato Caldara. Pinazzola inventa un cross per il destro al volo di Caldara, che fa doppietta, incredibile. Insomma, parliamo un pochino del Napoli, Carlo, che ieri si è liquefatto davanti all'Atalanta, anche se secondo me ha ragione Pierpaolo Marino, ci diceva prima, in fondo il primo tempo il Napoli non ha giocato male, l'Atalanta era veramente superiore. Gigi De Canio intanto saluto, mister, buonasera. Ciao, mister. Buonasera a tutti. Ciao. Che è successo al Napoli? Che ha incontrato l'Atalanta. Ha incontrato una squadra molto in forma, molto preparata sotto tutti gli aspetti e non è stata molto fortunata il primo tempo perché ha sbagliato qualche gol di troppo, qualche bella parata del portiere e poi è stata un po' disattenta al cospetto di una squadra che in questo momento, cioè in questo momento, un po' di tempo bisogna darle merito, non perdona nulla a nessuno. E poi si è disunita, non ha trovato la forza poi per per recuperare un risultato che insomma sull'1-0 era ancora la sua portata. Io voglio chiedere a De Canio, che è un mister di grande esperienza, secondo lui cosa pensa un allenatore del Napoli che magari in questo momento ha visto il secondo gol di Gabbiadini, buono, in girata, bellissimo, 2-2 Manchester United, Southampton, doppietta non di Gabbiadini, più uno credere. Buono annullato. Ha fatto un gol da cinema, sì, bellissimo. L'hai visto? Bellissimo. Visto, Gigi? Sì, l'ho visto. Che cosa pensa Sarri in girata, questo momento? A spalle, con le spalle attaccate al difensore. Guardate, poi ognuno di noi ha le sue idee, il suo modo di vedere il calcio e poi tutto va contestualizzato, no? Io sulla storia di Gabbiadini mi permetto di dire, credo che sia uno dei pochi errori che si possa imputare come gestione probabilmente a Sarri. Questo lo dico però dall'esterno, perché poi bisognerebbe essere dentro per capire veramente che cosa può essere accaduto, però così, guardando il conoscendolo da tanto tempo, a me sembrava un giocatore assolutamente ben inserito nel Napoli. D'altronde nell'anno precedente, quando lui l'aveva fatto giocare sempre in Europa League soltanto perché c'era Higuain che stava facendo cose sensazionali, ragazzo segnava. Faceva la prima punta e segnava. Se non sbaglio, aveva fatto 5 gol nel girone di Europa League. Gigi, sarà capitato anche a te una carriera lunga e prestigiosa di non prenderti con un giocatore che magari poi è andato da un'altra parte e ha fatto bene? Questo può succedere, sì, no? Sì, può succedere, certo. Perché tu vedi un calciatore, perché magari anche al calciatore stesso forse non dai quella sensazione di fiducia di cui lui ha bisogno per poter rendere al massimo, e può accadere. Per questo dicevo, non sappiamo all'interno, così giudicando per i valori che si vedono, che si sono sempre visti di Gabbiadini, era assolutamente un giocatore che poteva assolutamente anche servire al Napoli, certo. Ma poi anche perché la questione Pavoletti, insomma, un giocatore che era da tanto tempo infortunato, è che con i tempi che ha anche Sarri di inserimento da un punto di vista tattico, insomma, sarebbe stato comunque un punto interrogativo. Però è andata così. Ma Sarri cosa deve fare? Andare avanti con la sua testa, anche a costo magari di sbagliare, ascoltare De Laurentiis? No. Sarri ha le idee chiare, come tutti gli allenatori. Insomma, in tutte le decisioni che prendono c'è il rischio di poter qualche volta sbagliare, no? Però siccome gli allenatori decidono prima e quando sbagliano lo capiscono dopo, questo è il ruolo dell'allenatore. Lui ha formato un bel gruppo, il gruppo gioca bene, esprime una qualità di calcio di assoluto livello. C'è stata una serata storta per gran merito dell'avversario. Fortunatamente si gioca subito una partita di grandissimo livello anche emotivo e c'è la possibilità di cancellare subito questa brutta questa pagina non bellissima. Sì, c'è anche chi parla di sfortuna, ci credo poco, anche se poi ieri nel primo tempo non è girato tutto benissimo al Napoli. Ringrazio Gigi De Canio, grazie Gigi. Mister. Grazie a voi, buonasera a voi. Vi faccio invece sentire Paolo Sosa, oggi la Fiorentina è stata contestata da centinaia di tifosi. Visto un po', visto il clima, visti i risultati e tutto, ma lei ha mai pensato di dimettersi o pensa di dimettersi? Grazie. Io, quello che mi piace fare di più è allenare, per questo non penserei mai fare una, cioè, in qualsiasi, principalmente in momenti di difficoltà, cioè non sono una persona di allontanarmi dalle difficoltà, io vedo le difficoltà come opportunità. Credo che questa squadra abbia cresciuto di personalità e carattere, c'è ancora spazio per continuare a crescere e sicuramente è nel mezzo delle difficoltà e dei momenti difficili che devono continuare a crescere tutti noi e abbiamo l'opportunità di farlo già da domani. Questo Paolo Sosa oggi, Dead Man Walking. Dead Man Walking, Ah, sì, si è capito, sì, che la storia è finita, ma che a fine anno ci sarà il divorzio. È finita da gennaio del 2016, siamo a febbraio del 2017. Adesso è legittimo il dubbio che forse tu hai avuto, non ricordo, ma si starà giocando anche una parte del suo futuro con questa serie, con questa pessimo finale di avventura, oppure magari andrà alla Juventus, oppure comunque avrà un grande mercato, eccetera. Io lo ritengo uno molto, molto intelligente. Uno che forse non è bravissimo a cambiare le partite in corso d'opera, però non vorrei che si uso una brutta parola, si deprezzasse anche dal punto, sì, di vista un finale prestigio di stagione così, un'intera stagione così, però da a qui Milano poi ha giocato molto alla portoghese, sai che per i portoghesi il gol è un optional, no? Quindi la Fiorentina ha schiacciato il Milan la domenica scorsa nella sua area di rigore e non ha fatto un tiro in porta. Io però credo che i tifosi della Fiorentina sbaglino a valutare che questa squadra dovesse necessariamente arrivare in Europa, sì, quando abbiamo visto come stanno correndo le altre. E insomma, noi abbiamo aperto dicendo ci sono squadre, una resterà fuori dall'Europa, qualsiasi Europa, certo, si va dal Napoli dal terzo posto al com'è Milan al settimo posto in sette punti. Si sono inebriati all'inizio della stagione scorsa, Giovanni, quando erano tra i primi in classifica, lì si sono inebriati e dopo la ciucca ti resta mal di testa. Inebriati, buonasera. Oh, è venuto a trovarci Giancarlo Antonioni. Sì. Beh, devo dire che sono molto contento di per cosa? I festeggiamenti stamane al centro sportivo. Sono particolarmente felice per i tifosi della curva Fiesole che hanno reagito bene. Ma in realtà hanno contestato, eh. Non era una festa. È andato del gobbo a Paolo mi Sosa. Mi è piaciuto questo clima ancora carnascialesco, estroverso, con alcune maschere. Alcune maschere rientrate per l'occasione da Viareggio. No, adesso noi capiamo che da dirigente deve sempre vedere. Sì, erano vestite in maniera particolare. Com'è che erano vestiti? La maggior parte era travestita da ultras della curva incazzati. Peraltro no, travestimenti erano riuscitissimi. Sì. Ma no, non erano incazzatissimi, anzi incitavano a tornare in campo, e cioè mi urlavano andate a lavorare. È stato un clima veramente meraviglioso e ringrazio per questo. Ma perché questo, noi dobbiamo avere queste cronache cosa, da Firenze così, questa gente felice, surreale, questa gente felice, d'altronde siamo surreali, ci aiuta ad andare avanti. Abbiamo reagito bene, la squadra ha reagito bene. Una cosa, poi abbiamo il traffico, carissimo Giancarlo. Ma Paolo Sosa va o no alla Juventus? Ma non si è dimesso. Traffico, salutiamo Carlo Genta. Ciao, ci sentiamo fra un minuto. Domani la Liga e il rugby. Tutti convocati. Convocati. Andiamo a Madrid da Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport. Ciao Phil. Ciao, buon pomeriggio. Allora, raccontiamo questo Atletico Madrid-Barcellona 1-2 che momentaneamente porta il Barcellona in testa alla classifica, più 2 su Real Madrid, ma è per il momento un effetto ottico. Sì, perché poi il Madrid gioca con il Villarreal e poi c'è anche un'altra partita in meno, diciamo, da recuperare, per cui insomma. Però il dato è che sono sempre vivi. Esatto, questo mi sembra il dato più eclatante. Hanno un ottimo portiere e poi hanno Messi che, pur non facendo una grandissima partita, alla fine gli ha risolto la questione e restano là, insomma. Luis Enrique oggi ha provato a cambiare, ha fatto un 3-4-3, ha messo il rombo con Messi dietro le punte, Rafinha molto largo, e ha funzionato in parte, e per me potevamo segnare anche prima, sono andati in vantaggio, poi ha pareggiato con Godin, un gol tra l'altro sicuramente con un fallo dello stesso Godin su Busquets, però non era, insomma, ha dei limiti il Barça, però è sempre lì. Detto questo, mi sembra difficile che possano rovesciare il 4-0 di Parigi, questo no, però in Liga ovviamente possono competere. Insomma, sì, è una competizione 4-0 di Parigi che è più di una sentenza, forse non lo è il vantaggio che Real Madrid, tolto l'effetto ottico, continua ad avere in testa quella classifica. Non lo è, no. Soprattutto io sto leggendo adesso su Mundo Deportivo Luis Enrico che può dire si è vista l'unione del gruppo, della squadra, cosa che non era più scontata. No, però anche lì non ho mai visto, dire che lo spogliatoio contro Luis Enrique o che ci siamo problemi, è sempre limitato, nel senso che Luis Enrique comunque è un carattere complesso, insomma non è che uno che cerca chissà quale compiacenza, quale unione nello spogliatoio, le cose sono sempre uguali, non c'è un grandissimo rapporto, però questo è un gruppo che di vincenti che convive e continuano a farlo, non né più né meno, perché anche quando si dice ah no ma se ne andrà sicuramente, nessuno lo sa cosa succederà a Luis Enrique, è un carattere talmente particolare che magari se gli prende bene resta, se decide di andare via va via, insomma, no? Non ci sono grandi certezze, come anche a livello di rapporti io non ho mai visto così tesi. Questo è il discorso. Il problema vero è che gioca male, cioè non gioca bene come prima. Tu è lontanissimo dal Barcellona di una volta. È chiaro. E questo leggevo ovviamente in settimana una statistica, dal 2008 a oggi è il Barcellona col minor possesso palla. Sì, esatto, però è questo ferisce soprattutto l'orgoglio di tanta gente che sta attorno al Barça, soprattutto parliamo di stampa e alcuni tifosi, per cui loro non, diciamo, appunto, vincere non basta, bisogna giocare bene, perché il Barcellona effettivamente ha spesso giocato molto molto bene, però questo è il vero problema, più un problema di immagine in realtà che del resto, no? E questo perché tanta gente si lamenta, tanti appunto giornalisti anche influenti e abituati a un certo calcio, adesso quel calcio non c'è più e si lamentano, però io non so poi questo quanto poi alla fine influisca in questo senso, perché poi alla fine le vittorie sono le vittorie. Luis Enrique non ha ancora perso una Liga, è arrivato. Vediamo se perde questa, sarebbe la prima, no? E comunque ha vinto gran parte dei trofei ai quali ha partecipato. Però resta questo, no? Questa situazione per cui il Barcellona che non gioca bene è un Barcellona criticabile. Questo è un po' il punto. Sì, è sempre il solito tema di dibattito che c'è attorno al Barcellona e in parte anche attorno al Real Madrid. A proposito, cosa ti aspetti stasera da Zidane? Quale versione del Real? Questo vediamo. Stasera sono curioso. Io vedo il Real è una squadra in grandi, grandi difficoltà. Abbiamo visto con la Roma, sì. Sì, abbiamo visto con la Roma, ritorna vinto, però è una squadra che aveva vinto una partita su 10 o 11, mi sembra, alla fine, prima con la Roma erano 10, mi sembra. Madrid deve vincere, se non vince è un problema, perché chiaro, doveva anche battere il Valencia e ci ha perso. Il Valencia è una squadra che ha perso con l'Eibar, no? Anche ieri di nuovo con l'Alaves, e invece è riuscito a battere il Madrid, non si sa bene come, no? Se il Madrid stasera non dovesse vincere, allora sarebbero anche ottime notizie per il Napoli, perché poi qua l'atmosfera, sai com'è, è volubile. ma difatti siamo rimasti alla partita dell'andata che mi pare di ricordare Real abbia commentato con maggior rispetto del Napoli di quanto abbia fatto il Napoli stesso. Sì, sicuramente. Io non so se è cambiata l'atmosfera nel frattempo. No, è così. Comunque, per me, dico, il Napoli continuerà a giocarsi le sue carte. È chiaro che Real Madrid è favorito, è una squadra superiore al Napoli, però insomma, vediamo come va stasera, perché questa è una partita strana. Insomma, il Real Madrid ha vinto una volta in trasferta negli ultimi 3 mesi. Mi sembra che questo, no, sia un dato abbastanza significativo. Vediamo se vince stasera, è un conto. Se non vince, per il Napoli sono solo buone notizie. Poi è chiaro, uno può dire, il Napoli ha perso la davanti. Buone notizie da Madrid, non gliene frega granché, però immagino ieri abbiano guardato con grande attenzione. Però trattamento riservato all'Atalanta al Napoli. Sì, però l'Atalanta è superiore al Villarreal sicuramente in questo momento, è una squadra in gran forma e così. Vediamo stasera, sono curioso. Io penso che alla fine Real Madrid debba vincere, e torna la BBC al completo, Bale dovrebbe partire al primo minuto, e vediamo. Però ecco, se non dovesse vincere, la notizia, al di là di partecipare al Barça, può essere interessante in chiave Napoli. Grazie Filippo. A voi, ciao. Grazie ciao. Filippo Maria Ricci. Ciao, intanto 2-2 tra Manchester United e Southampton. Siamo al 20° del secondo tempo, partita che adesso è equilibratissima. Ricordo Manchester che si era portato sul 2-0 con Ibrahimovic e Lingard nei primi 38 minuti, poi Gabbiadini, doppietta, ultimo minuto del primo tempo, quarto minuto della ripresa. Gabbiadini che sullo 0-0 si era visto annullare un gol assolutamente regolare. Antonio da Bari. Buonasera, vorrei fare una domanda. Dopo la partita di Sassuolo-Milan, sì, ho sentito da parecchi giocatori del Sassuolo, dallo stesso Di Francesco, polemiche su come se il Milan avesse rubato. Il rigore di Bacca innanzitutto era da ripetere, perché c'era Acerbi, genere di rigore. Non ha fatto un tiro in porta il Sassuolo. Però perdonami Antonio, così la facciamo fuori, perché ne parlavamo prima fuori onda in redazione. Allora, se usiamo questo metro, andava ripetuto anche il rigore sbagliato da Berardi, perché ci sono due difensori del Milan dentro l'area. Appunto, quindi hanno sbagliato due volte l'arbitro. Sì, no, ne ha sbagliato anche più di due volte Antonio. Sì, ma non capisco queste partite della vita che il Sassuolo fa col Milan, poi magari con altre squadre, senza far nomi, manda in campo non la seconda, bensì la terza squadra. Bah. Io credo che il Sassuolo non mandi in campo la seconda o la terza squadra. Il Sassuolo quest'anno è arrivato ad avere 10-11 infortunati contemporaneamente, e questo evidentemente ha un peso. Io però, Antonio, non capisco quale sia il problema di dire che oggi è una giornata in cui il Sassuolo è stato pesantemente condizionato. Lo si dice liberamente, così come è stato detto che nelle ultime settimane al Milan non è sempre andata bene, per usare un eufemismo, con gli arbitri. E credo che sia così, insomma. L'episodio penalizzante. Ma non so, il rigore di Paletta che ha affettato non è a rigore. Vediamo tutti i contatti in area di rigore. Tutti i contatti. Va bene. Finirebbero le partite 18-15, 13-8. Vabbè. Se poi magari il Sassuolo, senza fare un tiro in porta, può vincere la partita. Allora registriamo da Antonio da Bari che Paletta non ha commesso fallo da rigore nel secondo tempo. Però insomma, vediamo, domani leggiamo le moviole. Premium prima è arrivata a 40 minuti di moviola, l'ha fatta sul nulla evidentemente, non avevano ospiti. Grazie Antonio, però torna a trovarci, grazie. Salve. Abbiamo quasi finito, facciamo il pronosticone, dai, il pronosticone. Ma eccomi c'è qua, il nostro Serse. Mi avete interpellato, sì, a prescindere. Allora, facciamo un pronosticone su Inter-Roma. Allora, oggi ho voglia e sono orgoglioso di fare questo pronostico. Sarà decisivo stasera a Florenzi. Florenzi non gioca. Ah sì? Facciamo un pronostico fatto bene. Nell'Inter invece sarà fondamentale la marcatura di Miranda su Dzeko. Che Miranda non gioca, ho capito che non abbiamo il pronostico. Ah, non sì? Gioca, è squalificato. Ah sì? Beh, se volete posso farvi pronostico su Fiorentina-Torino. Dai, pronostico su Fiorentina-Torino domani. Oppure sera, posso dirvi chi vince gli Oscar. Anche gli Oscar, no? Però dovremmo sapere chi vince Inter-Roma. Oppure chi verrà eliminato a Masterchef. Pronostico su Inter-Roma lo facciamo. Sì. Posso dirvi che tempo farà? Ma non riusciamo a fare il pronostico su Inter-Roma. Inter-Roma, partita intensa, 1x2. Sì, va bene, abbiamo finito qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Roberta Frisani, Filippo Aureggi in regia, nostro Andro Mercù. Tutti i convocati torna domani alle 14. Noi ci risentiamo domenica dalle 17. Ciao.